teso fra terra e cielo, tra preti, dame e mercanti, cavalieri e santi. In questa terra scoscesa di monti e valli, cercando Dio e una nuova identità, ho dormito sulla pietra e ho sognato un'altra umanità. Sospeso fra bene e male, in questo eterno alternarsi di Quaresima e Carnevale. In questo tempo scandito da campi e campane, sognando Dio e un'altra libertà, ho abbracciato un lebbroso e ho cercato un'altra umanità. Resta fermo qua giù. Sospeso fra buio e luce, in mezzo a chi odia la guerra ma non trova mai la pace, senza denaro né spada, in viaggio ancora fra Dio, il mare e un'altra umanità, ho parlato agli infedeli sulle tracce di un'altra verità. E lo spirito vola in alto sempre più su, ma questo corpo di carne ancora resta fermo qua giù. Sempre più su.